Come prima cosa direi vorrei leggere una cosa che un testo che ha inviato Adriana Dadà, che ha voluto intensamente, diciamo, questa iniziativa di stasera e che in gran parte l'ha organizzata, e purtroppo ha dei problemi di salute per cui non è potuta intervenire, e quindi vi leggo questo testo che ha scritto. Nell'aprile 1998 mi trasferii dal centro storico di Firenze al rione di San Jacopino. Si sente? La casa che mi aveva entusiasmata, tutta sgarrupata da rimettere, era in via Spontini ed affacciava sul giardino di Maragliano, ora giardino Samba e Diop. Appena messi i mobili in casa mi affacciai alla finestra e vidi una vicina di casa che mi salutò cordialmente. Ricambiai dicendo della mia felicità di essere arrivata in una zona della città con affaccio su uno spazio con tanto bel verde. Risposta: guardi che questo verde l'abbiamo conquistata con anni di lotta strappandolo alla speculazione selvaggia del costruttore Pontello, che come vede non aveva intenzione di lasciare neppure un centimetro di spazio pubblico. Allora è proprio corrispondente al mio modo di vivere e pensare, risposi. Lei, la Mirella Bartoli, proseguì: e guardi bene che dai nostri tetti abbiamo sparato ai cecchini fascisti per poterci liberare dai nazifascisti. Allora sono proprio a casa mia, fu la risposta entusiasta. E negli anni successivi godetti di quella bella situazione, condividendo con molte altre persone questi spazi di socialità, di vita all'aria aperta, di lotte per migliorare la vivibilità. Nacque l'Associazione Giardino San Jacopino. Ci legammo con una scuola molto valida, il Complesso Verdi. Nacque un libro, un murales sulla storia delle conquiste di questo spazio. Con le lotte fu fatta la richiesta e ottenemmo di avere il giardino intitolato a Samba e Diop, due compagni uccisi da mano assassina, dichiaratamente di destra. Nacquero belle iniziative come Mangia come parli. Il rione si rafforzò come base sociale e partecipazione, ma la crescita degli abitanti, dei ragazzi scolarizzati, che chiedeva più spazi verdi, più aria pulita, più piste ciclabili, insomma, di allargare la vivibilità, andò via via restringendosi. Nell'intero rione mancò anche la manutenzione ordinaria, per cui gli spazi verdi si restrinsero, la possibilità di fare iniziativa politico-sociali si ridussero fino all'attuale stato di degrado del giardino e di molti altri spazi del rione, tangibili ad occhio nudo. Intanto crescevano gli spazi dei mostri prodotti dalla speculazione edilizia, imperante su tutta la città, particolarmente evidente in questo rettangolo delimitato da Viale Belfiore, Fosso Macinante, Mugnone, la popolazione a lamentarsi e l'amministrazione comunale insensibile se non alle richieste dei grandi capitali che si stanno mangiando ormai tutta la città. Com'è stato possibile tutto ciò? Ce ne parlano stasera Paolo Degli Antoni, Ilaria Agostini e Fanny Di Cara. Mi dispiace non poter partecipare per gravi motivi di salute, ma volevo portare il mio saluto a un'iniziativa che vuole essere la ripresa di un percorso partecipato di conoscenza per attivare la resistenza dal titolo Giù le mani dalla città. Oggi, 5 dicembre 2025, nel Circolo Arci tra i lavoratori di Porta al Prato riprende la lotta a largo raggio. Giù le mani dalla città, ciclo di incontri sulla speculazione in atto sul territorio fiorentino che sta spazzando via le poche zone di natura rimaste non colate di cemento. A partire dagli spazi verdi destinati a scomparire, dalle ex officine grandi riparazioni OGR cancellati da un piano urbanistico che prevede l'espansione di edilizia di lusso a danno degli abitanti del quartiere. La rete antifascista di San Jacopino, Puccini, Porta al Prato porta avanti da un decennio azioni di resistenza in un rione saccheggiato, come altre parti della città, da un capitalismo di rapina che non lascia spazio agli abitanti, togliendo verde, aria e vivibilità. È importante riattivare ruoli di conoscenza e di azione a questo percorso di resistenza di lunga durata, per riprendere il ruolo di protagonisti e riappropriarci degli spazi e della nostra vita. La pinetina che si vede nel volantino relativo alla prima iniziativa, che costeggiava la ferrovia esistente e abbattuta per recuperare aree fabbricabili, è uno dei pochi spazi verdi naturali rimasti, insieme a zone da espropriare per riportare vivibilità a una città e a un rione tra i più saccheggiati della città. Prendiamola a simbolo di una lotta che dal centro storico si dipana fino ai confini della piana fiorentina, unificando lotte e prospettive di cambiamento radicali. Io avevo il compito di presentare l'iniziativa di stasera, però mi sembra che questa bellissima lettera di Adriana abbia assolutamente già riassunto quello che è il tema di stasera. Ha già presentato anche i tre relatori. Volevo aggiungere solamente una cosa, per chi non, forse ci conoscete tutti, forse non tutti. Promuoviamo l'iniziativa di stasera come rete antifascista di Saia Copino, Puccini, Porta Prato. Questa rete, e gli intenti mi sembrano evidenti, è nata, diciamo, in risposta all'apertura anni fa, di una sede di un noto gruppo neofascista proprio qui nel quartiere. A distanza di qualche anno, devo dire una cosa. Il gruppo neofascista evidentemente alla fine non è riuscito a trovare o a fare il proselitismo che voleva e se n'è andato. Magari hanno aperto da altre parti, ma da questo quartiere se n'è andato. La rete antifascista invece continua. Infatti stasera siamo qui. Quindi questo mi sembra, cioè, lo volevo, insomma, lo volevo Sottolineare. sottolineare. E come rete antifascista, insomma, cerchiamo di vivere ovviamente nel nostro piccolo, il nostro quartiere, non si intende solamente una risposta puramente politica di tipo appunto di resistenza a gruppi politici fascisti, ma bisogna cioè intendiamo resistenza anche dal punto di vista di come riusciamo a vivere il nostro quartiere. A fronte di quella che è ormai questa speculazione edilizia incontrollata che ormai da anni è sotto gli occhi di tutti, quindi diciamo una resistenza anche in questo senso. È da questo punto di vista che nasce l'iniziativa di stasera. E abbiamo la fortuna di avere con noi i nostri tre ospiti, Paolo Degli Antoni, che è agronomo, Ilaria Agostini, docente presso l'Università di Bologna, e Fanny Di Chiara, architetta ed urbanista. Quindi mi sembra che cioè siamo riusciti, insomma, abbiamo, come dire, una miscellanea di esperienze e di professionalità che io penso, insomma, ci possa stasera con questi interventi possa veramente darci degli spunti e farci riflettere ulteriormente su quella che è, insomma, sulla situazione dal punto di vista urbanistico o quantomeno delle idee che questo comune purtroppo ha dal punto di vista, diciamo, dell'assetto urbanistico della città e in particolare del nostro quartiere. E niente, io a questo punto lascerei la parola ai relatori. Inviterei Paolo. Sì. Buonasera. Mi sono interessato in diverse fasi del destino dell'area ex Officine Grandi Riparazioni, in particolare facendo parte di un gruppo di persone in rappresentanza di due associazioni e due comitati di cittadini di questo rione che elaborarono dei documenti e ho piacere di vedere delle persone con cui appunto abbiamo elaborato questi documenti anni fa, e con i quali facevamo una manifestazione di interesse preliminare alla redazione del piano operativo comunale. Di queste nostre richieste, un paio sono andate in porto, e cioè la destinazione a nuovo verde pubblico del terreno di cui al fallimento confinante con Piazza Bonsanti, e la destinazione ad usi collettivi di Via delle Carra, dell'interno di Via delle Carra, e restava invece naturalmente tutto da decidere per quanto riguardava l'ex OGR. Vedete che il protesto è già 5 anni che si fanno, il manifesto che ho appeso infatti era stato prodotto da dei soggetti collettivi nel giugno 2020, quando ancora non era stata perfezionata la vendita, e di conseguenza vedete che infatti c'è il titolo "I beni collettivi non si vendono". Quest'area dismessa invece poi negli anni successivi è stata venduta, e naturalmente l'acquirente ci vuol fare un grande affare di tipo immobiliare. I cittadini avevano molta preoccupazione rispetto alle conseguenze che questo sviluppo immobiliare di quest'area avrebbe prodotto sull'intero rione. Allora, ecco, per esempio, questa è una foto che ho fatto io molto recentemente, e vedete i capannoni che sono corrispondono a 3.000 metri quadri di un totale di 42.000, quindi altri 39.000 saranno di nuove costruzioni. Le demolizioni sono già state fatte tutte, come probabilmente vi siate già resi conto. Ecco, e c'è una vegetazione, come si vede qua, in gran parte piantata dalle ferrovie, e ora qui si vedono delle conifere, ma anche, soprattutto i pioppi, nati spontaneamente dopo l'abbandono della sede ferroviaria, perché le massicciate ferroviarie in disuso sono uno degli ambienti in tutta Europa. Pensate al Südgelände a Berlino, il massimo della colonizzazione si ha sulle massicciate ferroviarie abbandonate. Allora, io penso di fare cosa utile leggendo e in qualche modo ripetendo a chi ha contribuito a scriverlo, ma per gli altri presenti, che cosa avevamo scritto noi cittadini. Allora, qui lo leggo, ma poi ve lo potete ritrovare pubblicato sulla rivista online che all'epoca si chiamava La Città Invisibile, che ora è Città Manifesta. Allora, rispetto alla scheda del piano operativo, siccome lo stesso comune aveva scritto: ai fini della mitigazione degli effetti ambientali, l'intervento è inoltre soggetto alle seguenti prescrizioni specifiche. In riferimento a un quadro prescrittivo desumibile dagli esiti della pregressa valutazione ambientale strategica, considerato il mutato quadro normativo riferito al contesto in cui sono maturate le richieste, stante la complessità dell'intervento che coinvolge diverse componenti ambientali, si ritiene indispensabile conseguire un maggiore livello di approfondimento nelle successive fasi. Perché si parla di fasi? Perché... scusate. Sì, sì. Partito. Una fase, tanto intanto dico delle fasi. Una fase è appunto la scheda del piano operativo. Una scheda generica, se voi ve la scaricate da internet vedete semplicemente l'indicazione dei metri quadri complessivi e della ripartizione percentuale di destinazioni, 60% residenziale, e poi c'è anche invece del commerciale, del direzionale, commerciale e ricettivo. Sentivamo la mancanza, vero? Del ricettivo. E quindi, come dire, lo stesso comune si rendeva conto che c'erano tanti problemi da discutere, però li rimanda alla fase successiva, che è quella che inizia ora, cioè il piano attuativo di questa scheda. E dice, verificando, dice lo stesso comune, anche le ripercussioni generate dall'intervento in un intorno significativo dell'ambito urbano in cui si colloca, sia nel corso della fase realizzativa, perché ci sarà un impatto della cantierizzazione, che in quella di esercizio. Il livello di approfondimento valutativo sarà funzionale e conseguente al percorso autorizzativo individuato e al tipo di intervento. Ora, l'ultimissima dichiarazione dell'assessora dice che il percorso autorizzativo passerà attraverso un percorso di partecipazione. Parole ripetute più volte dall'assessora Abiti. Speriamo sia vero e che non sia solo scenografia. Ecco, i cittadini attivi del rione Leopolda Puccini San Jacopino hanno ben chiare le ripercussioni ambientali che tale intervento avrebbe su un significativo intorno urbano, già afflitto da criticità diverse, perciò una loro rappresentanza ha inviato nel settembre 2020 alla direzione urbanistica un contributo conoscitivo approfondito nel maggio 2022, ricapitolando in ordine alfabetico. B come biodiversità. Il rione ne è povero, guardate che così poco verde pubblico in piena terra come in questo rione non ce ne sono altri in tutta Firenze. Siamo ai livelli della città murata, per darvi un'idea, eppure essendo periferia fuori mura. Alberature, quindi appena sfiorato dal corridoio ecologico del torrente Mugnone. Il piano, la pianificazione complessiva urbanistica prevede che ci siano dei corridoi ecologici, non è uno ne abbiamo che è appunto il torrente Mugnone. Alberature stradali ci sono solamente in Viale Redi, Via delle Cascine, Via Benedetto Marcello, Viale Belfiore e Viale Fratelli Rosselli. I pochi e spazialmente limitati giardini pubblici sono concepiti con criterio ornamentale senza particolare pregio naturalistico, cioè proprio i pochi giardini che abbiamo, oltre che piccoli, sono ripresi dai cataloghi dei vivaisti anni 70, una cosa tremenda. Solo Piazza Vittorio Bui, quella davanti al teatro, ha un'alberatura ecologicamente concepita, essendo la più recente, già risente un po' di nuove tendenze. Infatti c'è Pioppo Bianco e Frassino Meridionale, che sono gli alberi attesi nella pianura, nella nostra pianura. Il canale Macinante è stato censito, opera appunto di noi cittadini, come luogo del cuore del FAI, c'è una scheda dei luoghi del cuore del FAI, che è il canale Macinante, unico ulteriore possibile corridoio di connessione ecologica del rione. Cioè, se ci vogliamo collegare con col fuori città, l'unico asse di biodiversità che resta è questo del canale Macinante. Clima. Tra il Parco delle Cascine e il rione costruito si registra un forte gradiente climatico. La temperatura media delle massime estive negli isolati più compatti è fino a 5 gradi più elevata. Cioè, nel Piano del Verde, tra le varie carte tematiche, ce n'è una con le isole di calore. Ebbene, l'area commerciale all'inizio di Via Mercadante, cioè dove c'era il deposito Lazzi, per intendersi, prima, è questa, è quella più calda di tutti, perché c'ha molte tettoie incatramate e quindi si scalda molto. L'anemometria, cioè il regime dei venti prevalente nel tardo pomeriggio estivo, favorisce il ricambio d'aria dall'Arno e dal Parco, che sono le zone più fresche della piana. Una nuova palazzata alta e densa lo ostacolerebbe, accentuando l'isola di calore. È già successo una volta. Il quartiere Leopolda c'ha la palazzata, proprio che sembra una barriera ai venti, quelli più desiderabili, che sono quelli del tardo pomeriggio estivo. C. Consumo di suolo. Lo leggo volentieri, perché oggi è la giornata mondiale del suolo, quindi proprio casca a fagiolo. Il suolo del rione è artificiale oltre l'80%, cioè oltre la soglia raccomandata del 70%, cioè 30% di verde in piena terra, della famosa, no, gioco di parole 330-300, inventato da un ecologo forestale olandese e adottata in quasi tutto il mondo, a Firenze no, soglia per rispettare la quale occorre, no, ecco, ora io qui siamo diventati molto radicali, ma anche articoli successivi a questo hanno ribadito il concetto, occorre non edificare l'area, cioè la vera soluzione è non edificarla per niente. Di come demografia, il rione ha una densità di popolazione molto elevata da troppi decenni, nuovi insediamenti aggraverebbero la situazione, indurrebbero ulteriore mobilità e fa bisogno di maggiori servizi sociali di base, cioè è ovvio che andrebbero messe scuole, sanità, eccetera. Sanità che è piuttosto scarsa nel rione. Peraltro il collegamento di mobilità elementare col Parco delle Cascine è limitato al trafficato viale Fratelli Rosselli e al Via delle Cascine. Eventuali passerelle, ciclo, perché tanti ci dicono, ma c'avete le cascine. C'è l'ippodromo, non ci sono le cascine, c'è l'ippodromo al di là della ferrovia. Quindi eventuali passerelle ciclopedonali traversanti il canale macinante tornerebbero utili, solo due sono utili. Una in prossimità di via del fosso macinante e il del prato del Visarno, perché per il resto se no si va a sbattere contro le casine con i cavalli. Grandi spazi non edificati nell'area ex OGR potrebbero ospitare attività temporanee all'aperto, oggi incongruamente posizionate nel Parco delle Cascine. Perciò niente, chiedevamo in conclusione la cancellazione, in prima battuta la cancellazione della scheda, e quella non l'hanno cancellata. In seconda battuta la riduzione e l'avvio di un percorso partecipativo. Allora, la riduzione c'è stata grazie all'intervento del Commissione Paesaggio e soprattutto la Soprintendenza ha voluto che si riducesse ai 42.000, che sono tanti, metri quadri risultanti dalla demolizione. Non sono ammessi 12.000 in atterraggio, che in una fantasia c'erano. Allora, quello che vedete qui davanti era appunto un momento di protesta quando ancora tutto non era così definito e che però ha lo stesso senso, cioè anche queste persone che hanno protestato fondamentalmente chiedevano di non costruire, e quindi vedrete nel disegno che ci sono i capannoni che tuttora esistono, l'abbiamo visti anche proiettati sullo schermo e si vedono bene in questo momento, i capannoni antichi e archeologia industriale, e quelli sono stati rispettati, e non costruire nient'altro. Anche Roberto Budini Gattà in un recente articolo ha ribadito questo concetto, cioè non aggiungiamo costruzioni. In subordine, se proprio qualcosa si deve fare, che venga fatto con un processo partecipativo. Ieri pomeriggio c'è stata la riunione del Commissione 6 Ambiente del Comune di Firenze, dove si è parlato proprio di vegetazione spontanea. Il focus era soprattutto sul quartiere 5, sulle aree Nucci di Novoli, perché lì veramente sono dei veri e propri boschi che svolgono delle funzioni di mitigazione climatica, drenaggio delle piogge eccezionali, depurazione dell'aria, proprio vicino alla Mercafir, che è l'isola di calore più importante di Firenze. E però la stessa cosa noi la possiamo dire per l'ex OGR, perché anche lì siamo vicinissimi a un'area molto calda, che si surriscalda molto e in un rione che ha bisogno proprio delle cose che abbiamo visto, biodiversità, spazi verdi. Tra l'altro, non sono il primo fantasioso agronomo che dice queste cose, perché già nel primissimo progetto dell'ex OGR, quello proprio generalissimo, era intervenuta la società Nemo, che è una società di naturalisti che spesso viene richiesta per la valutazione ambientale strategica, che ha scritto un bel trafiletto, ora non ve lo sto a leggere tutto, in sintesi, dice che il verde non basta con quello ornamentale anni 70, con le cose decorative pescate, con criteri estetici dai cataloghi dei vivaisti. Il verde prevalente deve essere di tipo naturale. Dove c'è già, e lungo il canale Macinante, ci sono delle querce bellissime, Francesco credo l'abbia viste anche da vicino, ecco, anche filmate, e io l'ho fotografate, ed è buffissimo come il progetto, le controdeduzioni al progetto della strada Pistoiese Rosselli neghino che ci siano, cioè è tremendo, dice no no, non sono sui terreni di nostra competenza, invece sono radicate proprio in quella fascia laterale. Paolo, di... le controdeduzioni negano anche il cambiamento climatico. Esatto, è proprio sono, sono negazioniste completamente. Perciò, qual è la proposta? Dopo aver visto le criticità, la proposta è, se veramente si fa il processo, il percorso di partecipazione, tutti quanti siamo qua, partecipiamo, diciamo quali sono le nostre perplessità e facciamo delle proposte costruttive, tenendo conto di tutto, dall'orientamento dei palazzi, che se proprio li vogliono costruire, che almeno siano orientati in maniera da non peggiorare le isole di calore, a il tipo di vegetazione che pretendiamo che ci sia e che deve essere totalmente diversa da quello del quartiere Leopolda. All'assessore Biagi come ci litigavo io nelle assemblee delle... Lui ci aveva questo mito che il verde devono essere dei ritaglini tra un palazzo e l'altro, perché danno un senso di sicurezza, perché c'è una casa di qua, una casa di là, un'auto che ti investe il bambino di qua, un monopattino che ti investe il cane dall'altra parte. Questo è il tipo di verde che veniva proposto da Biagi. Quando lo stesso OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che sotto i 5.000 metri quadri è come non avere niente, perché le funzioni sia ecologiche che sociali del verde cominciano a svilupparsi a 5.000 metri quadri. E qui vogliamo ricordare con piacere Adriana, perché l'unico giardino del Rione che supera 5.000 metri quadri è quello San Bediop. E solamente quando verrà perfezionato l'esproprio dell'area Bonsanti ne avremo un secondo superiore a 5.000 metri. Ecco, di questo sono molto condivisibili molte idee di questo poster, tranne due piccole ingenuità, del resto sono state fatte da non professionisti, tipo gli orti sociali. Voi capite che il livello di inquinamento di un terreno che è stato officine grandi riparazioni ferroviarie, cioè lì si può fare solo canapa per uso industriale, cioè non poi da ingerire ma da buttare dentro dei mattoni e farci delle costruzioni, e pioppi soprattutto. Quindi la mia proposta dall'inizio era un anno di canapa e 10 di pioppi. In realtà è passato tanto tempo, i 10 di pioppi già si sono fatti e quindi un po' si è depurato, ma certamente non a livelli da poter pensare a una produzione alimentare su questo tipo di terreno. E l'altra ingenuità è che c'è scritto parco all'inglese, che è una cosa proprio superatissima, che ho appena detto come e perché, e quindi casomai un parco naturalistico con un corridoio di connessione ecologica lungo il fosso Macinante. Spero di non aver parlato troppo, vi ringrazio per l'attenzione. Vai, allora stasera, su sollecitazione di Adriana Dadà, che ringrazio e abbraccio da lontano, non so se poi sentirà la registrazione, voglio parlarvi di una spina verde che vogliamo ficcare nel fianco del sindaco Funaro, ovvero di questo sistema territoriale, qua si vede nella è qua, vabbè, insomma, di questo sistema territoriale sul quale insistono progetti che avranno delle ripercussioni forti e non certo positive sul quartiere e sull'ambiente fiorentino. Poi dopo ci ritorno, ma insomma le questioni così di impatto saranno la costruzione della linea 4 del tram, la strada di scorrimento Pistoiese-Rosselli, il trasloco della facoltà d'agraria e poi altre cose che vi dico, nonché le OGR. Ecco, dalla scheda RU, regolamento urbanistico, poi non so, ora non ho verificato, sarà passata uguale identica nel piano operativo, ora, comunque quella del regolamento urbanistico area di trasformazione 0810, cioè le OGR, si nota, da questa scheda, ora forse non si vede tanto bene, ma insomma si nota esattamente l'erosione del parco delle cascine, cioè l'arretramento dell'accesso, no? Che è avvenuto con lo sventramento del piazzale. Ah, perfetto, grazie. Però io dovrei leggere, tienimi quella, grazie. No, tieni quella, tieni. Vabbè, non mi immagino. Ecco. Vabbè. Certo, così va bene. Sì. Quindi l'erosione e l'arretramento delle cascine, no? Avvenuto prima di tutto con lo sventramento del piazzale d'accesso devastato dal sottopasso di piazza di Fratelli, Viale Fratelli Rosselli. Il Teatro del Maggio, che si è mangiato diversi ettari, se non sbaglio sono 5, ma potrei sbagliarmi, architetto Paolo Desideri, di cui parliamo anche dopo, e poi il quartiere di cui abbiamo parlato, la palazzata, insomma questo parco che sta arretrando, si sta stringendo, strizzando, no? Ecco, in consonanza con, ecco, questa è la spina verde, no, che vogliamo mettere nel fianco della sindaca. Allora, in sintonia con, torniamo indietro, con quanto abbiamo letto sul volantino di questa serata, per conoscere e resistere in quest'area bisogna, penso, assumere un'ottica di sistema, cioè non parlare per singoli progetti ma pensarlo tutto insieme, quest'area, questo cuneo, questa spina, che è un'area interessante perché si incrocia con un allineamento storico. Queste sono tavole che ho preso in prestito, ho fatte io, ma insomma le ha ideate Roberto Budini Gattai, quindi mi sento di potervele mostrare, non come mie, ma insomma prese in prestito di questo allineamento rosso, questa linea rossa che ricalca la direzione di un cardo minore risalente alla centuriazione territoriale extraurbana romana. Ecco, l'asse congiunge idealmente Careggi con Scandicci Alto. Lungo il suo sviluppo si potrebbero formare nodi, ora qui scorrono i vari ambienti che intercetta l'asse del cardo minore, quindi si potrebbero formare dei nodi, dei percorsi assiali, no? Dunque non radialmente, cioè non c'è gerarchicamente centro-periferico come invece si insiste a progettare questa città. Quel poco che si è sviluppato lungo quest'asse, ad esempio passa per la manifattura tabacchi, quel poco che è stato fatto secondo questo principio di assialità non è avvenuto per scelta consapevole quanto piuttosto per un determinismo geografico, per la lunga durata dei segni nel territorio, eccetera. Ecco, appunto, progettare tenendo a riferimento, aspettate, torno indietro, tenendo a riferimento questo asse di collegamento avrebbe consentito di allineare funzioni alleggerendo le radiali, e vedrete che le radiali ritornano, e riconnettendo aree che risultano marginali nel sistema centro-periferico, come alcune delle zone che abbiamo visto passare. Ecco, quest'area è poi segnata, ha detto ben molto bene già Paolo, dal Fosso Macinante, che è un'opera idraulica, diciamo, consolidatesi nel periodo rinascimentale e che rappresenta un'area cardine, rappresenta, poi lo vediamo, un'area cardine per le OGR. Qui, come sapete, il Fosso Macinante viene deviato dalla pescaia di Santa Rosa e va bene, l'abbiamo visto nelle foto di Paolo, ripeto cose che sono già state viste e in parte dette, no, non le ripeto perché le ha dette Paolo, questa permeabilità che potrebbe tra il quartiere in cui siamo e le cascine, che potrebbe essere, come dire, ampliata, fluidificata, questi accessi un po', e che in realtà invece rimarranno una barriera anche nei progetti per come sono stati per come sono. E va bene, questa è questa traversata, questo è il barco, ne parliamo velocemente dopo. Il barco, le cascine, la oggi facoltà di agraria, ancora per poco, si pone proprio su questa su questa direzione, l'Arno, la passerella verso l'isolotto. Qui ora si perdono un po' le tracce, si esce dal quartiere, scusatemi, non è per fare il campanile, ma è perché non ci sta il tempo di dire tutto. Ecco, questa, a proposito della permeabilità, è la linea del tram che chiuderà a nord l'area della nostra Spina Verde, un tracciato che ripercorre una linea ferroviaria che paradossalmente è in via di smantellamento, perché la tranvia è stata voluta a raso nella scheda che bisognerebbe bruciare lì in Palazzo Vecchio. Appunto, si vuole che la tranvia sia a raso. Avevamo una ferrovia già pronta con i binari, con l'elettricità, con tutto. No, vogliamo arrivare a delle costi che raggiungono cifre stellari. Questo è l'obiettivo primario. Il suo percorso, vedete, è radiale dal centro alla periferia, antigerarchico. E, no, come antigerarchico, gerarchico, cioè da, ho sbagliato negli appunti, e va bene, e niente, quindi questa l'abbiamo vista. Poi avremo la strada di scorrimento Pistoiese-Rosselli, anch'essa con una direzione, cioè che va verso il centro, che porta sempre a congestionare il centro città, fino all'aeroporto. Già stata battezzata la strada delle limousine, perché diciamo non serve a tutti, ma servirà soprattutto a qualcuno. Gianni ha già promesso 30 milioni di euro per la sua costruzione. Ecco, la strada Rosselli e la linea del tram e la strada Rosselli correranno in parte parallele fino al barco. Il barco è quello, non lo vedo, scusatemi, forse ho sbagliato immagine. Ecco, e qua è il barco, poveretto, è il passaggio del Mugnone, del fosso macinante in botte sotto al Mugnone, quindi anche un'opera idraulica di una certa finezza, direi. Insomma, io non sono un'idraulica, ma mi immagino che sia stato fatto bene con calcoli, insomma, che regge fino ad oggi. Si troverà ingrovigliato in un groviglio di linee ferroviarie e di scorrimento, insomma, piuttosto, che mettono anche in crisi questa posizione. Tra l'altro è anche soggetto a vincolo paesaggistico. Il trasloco della facoltà d'agraria verso il polo di Sesto è un altro elemento che potrà portare un po' di turbolenza, diciamo così, perché ovviamente sarà nulla, nessuno dice nulla su questo, ma sarà di certo avviato verso una destinazione di tipo turistico e ricettivo. Ci metterei la mano sul fuoco, però comunque magari fanno una spa e poi finto, fanno lo studentato e poi finto, diventa qualcos'altro, solite cose. Ecco, poi c'è la questione della fondazione che introduce il privato nella gestione del Parco delle Cascine. La fondazione è denominata, a me mi pare una beffa, diciamo così, Fondazione Cascine Bene Comune. Vabbè, questo è proprio... La fondazione propugnata dalla sindaca prevede l'ingresso al 40% di privati e si pone come obiettivo di aumentare la fruizione commerciale del parco e di contribuire alle spese di gestione. Queste cose le sa molto meglio di me Francesco Torrigiani, di cui c'è una lettera, poi casomai ci illumina. Ecco, e poi va bene, il progetto peggiore più per impatto è quello delle, forse, non lo so, insomma, saprei fare la classifica, insomma, sicuramente pesante come impatto è quello delle OGR. Come sapete, l'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato è stata venduta nel 2022 alla Romana Flora Development per 10 milioni di euro. È una miseria, 10 milioni di euro per un terreno edificabile a Firenze tra centro storico e Parco delle Cascine equivale a 125 euro al metro quadro. 8 euro, quanto ho detto? 8 ettari. 8 ettari, sì. Il comune avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione e stornarvi le svariate decine di milioni di euro che saranno investite nella costruzione della penetrante urbana, cioè la strada delle limousine, di cui, come vi ho detto, Gianni ha già dato 30 milioni di euro, promesso 30 milioni di euro, e del tram. Allora, sulla scheda che vi ho fatto vedere all'inizio, che ora non riguardiamo perché anche noi, insomma, non ci se ne ha voglia, l'ha detto anche Paolo, che pure è agronomo e non è urbanista, però anche da urbanista vi posso dire che la scheda è praticamente una scheda vuota. Questo cosa vuol dire? Cioè, proprio c'è una sospensione della pianificazione delle regole. Questa è la cifra del piano strutturale Renzi fino a quello odierno. Cioè, per chi deve aprire una finestrina o mettere un pannello solare, regole strettissime. Per i padroni della città, cioè questi fondi che investono sulle grandi aree di trasformazione, abbiamo un vuoto pianificatorio per cui, ad esempio, nella scheda riferita alle OGR non sono previste le altezze massime, come se non fosse il comune a doversi occupare di queste cose. Non viene data una, come dire, una disposizione, anche se non vincolante, dei volumi, un plano volumetrico, qualcosa del genere. Sono tutte indicazioni vaghe, no? Di buon senso, tipo permeabilità degli accessi, grazie, fai cancelli con Fort Knox, presidio commerciale sulla viabilità principale, è certo che il commercio si farà lì, no? Rispetto dei vincoli paesaggistici, cioè sono, non lo so, cioè io trovo, vabbè, le previsioni edilizie, quindi nella vaghezza totale, è proprio lo stile del sistema Firenze di cui ho scritto anch'io sulla Città Manifesta, fondato per quanto riguarda le grandi trasformazioni su procedure decisionali, come dire, opache, no? La contrattazione pubblico-privato, nessuna informazione alla cittadinanza di quelli che sono i progetti, eccetera, non sappiamo mai nulla se non dalla stampa, nessuna partecipazione, o molto poca, vediamo se ora si apre qualcosa. Semplificazioni procedurali, facilitazioni fiscali, delega, questa è una cosa veramente che sta diventando insopportabile, delega delle funzioni urbanistiche a soggetti terzi, all'UNESCO, alla sovrintendenza, a Cassa Depositi e Prestiti che scrive le varianti. Mi sono fatto un esempio, ecco, non è il comune, no, come vi ho detto, a indicare le altezze massime nelle OGR, ma sarà la sovrintendenza a verificare che i nuovi edifici non ostruiscano le visuali paesaggistiche. Vi sembra pianificazione? A me no. Abbiamo visto con questo tipo di trucchetto cosa è successo all'ex comunale, cosa è successo in via San Gallo, eccetera. E poi infine c'è l'eliminazione dell'obbligatorietà del restauro come altro elemento del sistema Firenze, introdotta con una variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico, quindi non si devono più restaurare gli edifici vincolati. Sugli edifici storici non vincolati c'è la ristrutturazione edilizia con limitazioni. Sugli edifici notificati, quelli notificati per decreto, non c'è nessuno più neanche le limitazioni. Cioè, si può andare con la ristrutturazione edilizia, che il testo unico dell'edilizia definisce, fino alla demolizione con ricostruzione. Vabbè, questo comunque, noi abbiamo fatto ricorsi con Italia Nostra, ce li hanno bocciati, a me sembra folle. Allora, vabbè, questo però qui nel caso dell'OGR interessa meno, era solo per dirvi della questione del sistema Firenze. Quindi la nostra scheda sull'OGR prevede quei 42.000, prima 54.000, 42.000 metri quadri per un generoso 60% di residenziale, che è quello, diciamo, che rende di più, però l'ha già detto Paolo, quindi ora non lo ripeto. Il progetto, già vedete qua qualcosa, la progettazione è affidata al professor Paolo Desideri, lo stesso che aveva disegnato, che ha disegnato il Teatro del Maggio Musicale, diciamo abbastanza ammanicato col PD questo architetto. Sul progetto, come al solito, regna silenzio, non sappiamo nulla, non sia mai che la popolazione si possa esprimere. Ecco, qualcosa trapela di tanto in tanto sulla stampa, si parla di edifici alti, queste immagini le ho prese dal sito dei progettisti, di edifici alti fino a 10 piani, così dice l'architetto si libera suolo per il verde e l'attività culturale, cioè si costruiscono le torri così si libera. Quindi questi edifici alti andrebbero a comporre un art district, un distretto dell'arte, una cittadella stile East End, ho letto, dotata di funzioni rare, di funzioni pregiate, due piazze con hotel, un museo di arte contemporanea, nell'ex riparazione Carrelli, l'edificio storico che resta. All'epoca di Schmidt, o forse anche prima, si era parlato anche dei grandi uffizi. Poi un'area dedicata allo sviluppo residenziale. Ecco, questo forse vi interessa. Qua si... Aia. importante. Sì, sì. Aspetta, erano importanti ora le immagini. Eccoci, perfetto. Quindi nella immagine successiva non si vedono bene, perché ora vanno di moda questi rendering con le nuove costruzioni traslucide, ci sono e non ci sono, no? Un po' questo effetto. E sono tutte piazzate a diga, che potete vedere bene, quindi tutti i nostri come dire, auspici vanno in fumo. Quindi l'area dedicata allo sviluppo residenziale, come si legge nei giornali, lo sviluppo residenziale con giardini affacciati sul macinante per residenti evidentemente di un certo livello, che si possono meritare di abitare tra l'Art District e le cascine, insomma. E poi in coda qui alla fine, vicino ai grandi parcheggi, il social housing. Ecco, mi pare... Vabbè, queste sono, pertanto non si vedono bene neanche da vicino, sono tutte disegnate con questi colori che non si vedono. Mi pare che tutte le funzioni di cui avremmo bisogno, ecco, non compaiano, cioè a noi servono, non servono case di lusso come quelle che si prospettano. Ecco, voglio tenermi il mio amato sindaco, ex sindaco, non servono più case di lusso, ma case liberate dai bed and breakfast, non la favola del social housing, ma edilizia residenziale pubblica, non strade per le limousine, ma verde a servizio di un quartiere come quello in cui siamo, che ne è assai carente, come è stato detto, non cittadelle del lusso, ma aree destinate alla convivialità, alla socialità, non mercificate, alla sanità, non a pagamento, eccetera, eccetera. Ciò che richiediamo in sintesi sono le funzioni minori, no? Capaci di risarcire, di riparare il dissennato sviluppo di queste periferie che c'è stato, insomma. Funzioni insomma destinate ad usi di interesse comune, di pubblica utilità vera, dimostrabile. Io ho provato a fare qualche esempio, no? I poli integrati di mutualismo come troviamo a Roma, nuove, abbiamo detto, nuove maison du peuple, officine municipali, centri ambientali, spazi della memoria, della ferrovia e dei ferrovieri antifascisti, questa è la proposta di Adriana Dadà, aree da destinare a funzioni all'aperto che stridono con le piazze storiche, concerti, spettacoli troppo rumorosi per le piazze storiche in quest'area potrebbero trovare luogo, ma anche questa era la mia idea, magari è attuabile tra 15 o 20 anni, orti urbani, lo so, ora è troppo presto, ma noi ci proiettiamo nel futuro. Ecco, però tutto ciò come si potrebbe avere, cioè come si può ottenere questo? E pensa e ripensa, secondo noi, ora parlo un po' a nome di tutta la redazione della Città Manifesta, si può ottenere attraverso una variante stilata sulla base della pubblica utilità, perché le varianti sulla base della pubblica utilità si possono fare, cioè attraverso questo come primo, ma anche attraverso la revoca della scheda norma, se la rimangino, e delle convenzioni, spendendo i 30 milioni di giani per riscattare l'area, che a questo punto diventa non più appetibile, perché quando non è più edificabile i fondi non sanno di cosa farsene, bonificarla, restaurare l'alca riparazione carrelli e sistemare l'area verde. Con quei 30 milioni queste cose si possono fare. Quindi l'alternativa, crediamo, esiste ed è praticabile. Io parlerò di Castello perché è la realtà dove vivo, è la realtà dove faccio l'attivista urbana, come conviene, come dovremmo fare un po' tutti, a curare i luoghi che prima di tutto che abitiamo, no? E, si può mettere tutto schermo? E quindi vi porto alcune esperienze che riguardano il mio rione. Alcune sono tutte in corso. Vado. E questa, allora, le sono queste. Questo. Ah, sì, ok. Allora, casualmente, mettendo a posto l'archivio di una mia amica, una vecchia amica, ex collega, mi è stato chiesto di mettere un po' d'ordine in alcune parti del suo ricco archivio. E ho trovato un articolo tratto dalla Repubblica del 1985, scritto da Antonio Cederna. Le persone più vecchie se lo ricorderanno, le sue battaglie, che si intitola Il paesaggio in tribunale, ed è un articolo proprio mentre era in discussione quella che poi sarà la legge Galasso, no? Sul rispetto del, cioè non sul rispetto, sul l'approccio, no? al vivere, no? E al progettare e al trasformare la città e il territorio. Questo. E allora ho riportato solo un piccolo pezzetto di questo articolo, collegandolo ai problemi che assillano Firenze, no? In questo, veramente a questa colata di cemento, di trasformazione completamente fuori dalla, ma io direi proprio anche dalla norma, no? Perché qui ci sono tante leggi, a partire da quelle della partecipazione, quelle sul paesaggio, leggi di tutti i tipi, leggi sull'accessibilità, c'è di tutto, però di fatto la città è sempre più invivibile ed è sempre più a portata di chi ha un buon portafoglio e che si può permettere certi modi anche di non solo di speculare ma anche di abitare. E allora qui ho cercato un po' di riassumere intanto quello che sta succedendo a Firenze e citando solo una piccolissima parte di questo lungo articolo, che fra l'altro richiama la lotta degli esponenti della cultura, più che esponenti, di persone che la facevano nel loro fare, nel loro operare, no? E leggendo questi nomi, allora, ora non c'ho gli occhiali, vabbè, da Alberto Ronchei, Paolo Silo Labini, ecco, Giorgio Gianfranco Amendola, Alberto Arbasino, Giulio Carlo Argan, Italo Calvino, Pierluigi Cervellati, Tullio De Mauro, Luigi Malerba, Rosario Romeo, insomma, Giorgio Bassani, c'era anche il mio vecchio professore Benevolo. E mi chiedevo, ma dove sono i nostri intellettuali, i nostri sapienti, no? Cioè, che cultura di città noi stiamo agendo? Non solo a Firenze, ahimè. E chi alimenta questa cultura nella città, nelle persone che la vivono? E allora, rispetto a questo è il mio approccio, è il mio modo di fare nell'ambiente in cui vivo e negli ambienti in cui ho occasione di andare. Allora, questa citazione che ho ripreso la rivedete proiettata, quindi è inutile che ve la legga. Però è proprio, secondo me, è il cuore della situazione, no? Cioè, questo non avere consapevolezza che noi stiamo veramente sperperando in modo irrecuperabile è la base, cioè che è il suolo. Noi lo stiamo cementificando e purtroppo il suolo non è una cosa che si riproduce. Quando l'hai distrutta con il cemento, rendendola completamente non fertile per altre cose, e chiaramente finisce, prima o dopo ci sarà un punto di rottura, no? Ecco, allora, qui riporto un po' l'attualità che stiamo vivendo a Castello, che è questa centrale di trasformazione elettrica Enel, che ci è caduta sulla testa improvvisamente. E stranamente le cose che si vogliono fare si fanno anche molto in fretta. Qui noi l'abbiamo scoperta nel maggio di quest'anno, cioè proprio per caso abbiamo scoperto che avrebbero realizzato una centrale elettrica di trasformazione, il posto lo vedete dove, è fra le ville Medice e anche più ville anche diciamo così fra virgolette secondarie, chiamiamole così volgarmente, ma anche con una edilizia minore veramente stupenda, no? Dalla casa del contadino ai tabernacoli che costellano in modo molto ricco e anche molto bello Castello. E chiaramente quando ce ne siamo accorti ci siamo messi in cammino, prima di tutto cercando di capire perché questa centrale elettrica intanto lì, non per la solita battaglia, no? Del non nel mio giardino, ma portala un po' più là. Cioè qui veramente siamo fuori dalla ragionevolezza anche, no? E da un approccio al territorio che chiaramente non rispecchia assolutamente quello che ho cercato di richiamare riportando alla luce Antonio Cederna e le sue battaglie. Allora, abbiamo scoperto che questa centrale elettrica dovrebbe servire, e non è vero, al polo ospedaliero di Careggi, e questo chiaramente ci ha remato molto contro, perché è una bugia sonora. Però quando alle persone gli dici che serve a Careggi, ahimè, bisogna fermarsi. Invece Careggi è più che autonomo, perché si è provvista in questi anni della sua autonomia energetica. Allora, il problema è questo, che ci sono dei soldi del PNRR che sono messi a disposizione per realizzare questa centrale, che va fatta comunque. Abbiamo fatto un incontro, dopo tante insistenze, anche con gli operatori dell'Enel, con il presidente Gianni, eravamo alla vigilia delle elezioni regionali. E parlando con anche appunto i tecnici, hanno riscontrato anche loro i limiti di questa struttura, di questo intervento, non solo i limiti rispetto alla localizzazione di questa struttura, ma anche rispetto alla tecnologia. È come i tram a Firenze, no? Si mettono quelli di tipologia più vecchia e più impattanti. Però oramai i soldi del PNRR vanno spesi comunque e quindi l'intervento si fa lo stesso. Quindi chiaramente questo qui ha sollevato ancora maggiormente lo sdegno e la volontà di contrastare questo progetto. E purtroppo non ci stiamo riuscendo, anche per vie legali, alla vigilia delle elezioni regionali. Il TAR ci ha dato torto, e il giorno dopo c'erano le elezioni della regione, quindi ha portato molta acqua al mulino di Gianni questo. E abbiamo fatto di tutto, sit-in, quindi dall'aspetto legale all'aspetto della mobilitazione, della partecipazione. Quando c'è stato, udite, ve lo ricordate, no? Il 25ennale della carta di Firenze, che è la carta del paesaggio, no? Che è stata firmata a Firenze 25 anni fa, e quindi alla Villa Petraia c'era un simposio di tutti i ministri alla cultura europei, personalità, e il ministro Giuli, e abbiamo fatto un presidio e si sembrava le Brigate Rosse, avevamo una paura maledetta, sono scesi una delegazione mandata dal ministro e ci è stato promesso un incontro a Roma, e chiaramente l'incontro ancora non c'è stato e quindi ci hanno preso per i fondelli anche in questo caso. Però appunto la Carta Europea del Paesaggio, che è una carta in vigore, no? Che è un riferimento, è una cornice a cui tutti i piani paesaggistici, compreso quello di Firenze, che non so nemmeno se esiste, dovrebbero fare riferimento. E questo è il modo di fare comunque la città. Ecco, qui ho riassunto un attimo come un territorio, che è quello dove si sta realizzando la centrale, può essere completamente stravolto. Allora, la prima immagine è il, ancora non c'era una strada, che è la strada Chiuso dei Pazzi, dove... Allora, lì fa vedere la prima immagine, cioè come era nell'82, anche 82, quella è una foto aerea che risale all'82. Questa è la foto che riflette, da un altro punto di vista, a raso terra, la foto aerea. Allora, dopo grosse battaglie contro la realizzazione di una strada che ha prodotto una vera e propria barriera urbanistica, perché ha diviso Castello dalla parte legata a Rifredi, dalla parte opposta della strada hanno realizzato la scuola media e un auditorium, ed è veramente pericoloso per i ragazzi, ma non solo per loro, attraversare il bacino, comprende Castello chiaramente e il Sodo, attraversare, andare in sicurezza a scuola. La cosa poi paradossale è che è previsto un sottoattraversamento di questo territorio, e quindi praticamente questo sottoattraversamento, per raggiungere meglio Careggi, rende inutile, vana, questa strada qua, che ha completamente rovinato questo contesto. Poi degrado richiama degrado, questa è una formula terribilmente magica. È cominciata a apparire una prima mega antenna 5G e dopo poco se ne è aggiunta un'altra, quindi ci sono queste. Quindi questo è un po' il quadro di questa bella situazione. Allora, a proposito di paesaggio, a Castello ci sono diverse aree dismesse, tre molto consistenti. Una di queste ha conservato la sua funzione di area di insediamento produttivo. Prima c'era la Seves, che è una fabbrica che lavorava il vetro, il vetrocemento, il mosaico vetroso, i condotti per le linee dell'alta tensione, eccetera. Accanto, ecco, ho la freccina, accanto un'altra area industriale che era un colorificio, la Romer. E guardate, è enorme questa... Ecco, e qui ha chiaramente un inquinamento... Da metalli pesanti legati alla lavorazione dei colori, eccetera, esiste ancora, perché la bonifica non è stata realizzata in modo... No, come mai? Beh, scusate, sono un po'... Ecco. E qui che le manifestazioni del quartiere, per utilizzare in modo... legato ai bisogni del quartiere e per contrastare le speculazioni, cosa che invece si sta realizzando, perché stanno realizzando un'edilizia residenziale di lusso, 85 metri quadri, costa 500.000 euro. Fra l'altro, le persone che abiteranno qui rischiano di abitare in un terreno non bonificato completamente, e quindi non so con quali conseguenze. Fra l'altro, questo insediamento irrompe in una realtà che ha un tessuto antico, strade molto strette, quindi accessi estremamente complessi, poi aggravati dal fatto che nell'area industriale accanto, dove ora c'è una produzione legata alla moda, quindi bigiotterie, questa roba qua, che era Leo France, quando chiude le attività, qui si intasa completamente di traffico. Immaginiamoci quando questo insediamento sarà realizzato. Siamo riusciti con appunto le lotte, perché così si devono chiamare, a diminuire la quantità di alloggi. Eravamo riusciti a ottenere anche una quota di housing sociale, che invece abbiamo scoperta che è stata contrattata e quindi è stata spostata da un'altra parte, dove non si sa. Ecco, e quindi quello che la gente, qui siamo negli anni appunto, non ora, ma negli anni 85, quando è stata dismessa questa fabbrica, è stata dismessa per l'inquinamento che produceva. Accanto c'era un asilo, una scuola, un asilo, l'asilo Richter, che è stato chiuso proprio per l'inquinamento. Poi nel contesto intorno con le ville, l'allora direttrice Cristina Cidini lamentava che l'inquinamento danneggiava e i giardini storici della Villa Petraia e di Castello e della Villa Corsini, che è proprio a ridosso. Ecco, la Villa Corsini è qui. Si vede? Sì. E quindi questa Romer è chiusa ed è stata chiusa fino a poco tempo fa. Adesso stanno costruendo questo complesso e siamo riusciti a evitare che non fosse realizzato tutta la cubatura era prevista, quindi piani molto alti, ma cercando di fare rispettare la tipologia, no, perché questo sarà un francobollo appiccicato in un contesto dove non c'entra proprio nulla. Quelli che si vedono intorno di queste, la solita impresa edilizia che fa questi edifici che si vedono qui. Ecco, e purtroppo la vista della Villa La Petraia viene scippata al circolo Arci di Castello, perché quando sarà realizzato l'insediamento la Villa Petraia dal circolo non si vedrà più. Vado avanti. Questa è un'altra area dismessa che è ai margini di Castello, vicino al confine con il comune di Sesto, e questa è una lotta. Anche qui c'era un colorificio, quindi tutte attività alla faccia delle leggi sul paesaggio, ma allora alla fine del dopoguerra quello che prevaleva era creare posti di lavoro e poi la qualità degli insediamenti interessava niente. E anche questo era un colorificio ed è stato occupato ed è in corso questa occupazione da più di 20 anni. È l'ex Emerson ed è una realtà molto vivace, molto, anche rispetto al quartiere, rispetto al rione. E è stato presentato nell'ambito del piano operativo comunale la proposta, no, di mantenere a sociale questi spazi. Sono stati occupati un certo numero di capannoni, però la risposta del comune è stata quella di limitarli a 300 metri quadri di servizi sociali. Insomma, questo tanto per dirvi la ricchezza. E la partecipazione, e la cosa interessante e bella fra le diverse attività che vengono realizzate qui è la presenza e l'attività nel quartiere, no? Quindi appunto per salvaguardarne al massimo la vivibilità, che ancora c'è, che però viene minacciata costantemente. Ecco. Avanti. Sì. Sto andando indietro. Sì. Aspetta, scusate. No, così sbaglio. Questa? No, questa. Oh. Scusate. Sto finendo, E questa è un'altra realtà in corso. Questo è l'ultimo, allora, è la Villa Reale di Castello, il Viottolone, non so per chi lo conosce, che è quel bellissimo viale alberato che porta alla Villa Reale di Castello. E casualmente io ho scoperto, portando fuori il cane, che c'era uno spazio verde proprio a fianco del diottolone. E facendo una ricerca storica ho visto che è l'ultimo frammento di verde storico di Castello, dove passa, noi lo chiamiamo volgarmente l'acquedotto Mediceo, che portava il troppo pieno delle vasche delle ville La Petraia e Castello, che erano collegate, e le portava giù a valle, no? Verso la piana. Quando me ne sono accorta, chiaramente abbiamo creato una rete di attenzione intorno a questo spazio e abbiamo presentato nell'ambito del POC la proposta di abbinarlo a un progetto che avevamo fatto sulla mobilità, diciamo così, scolastica, cioè quello di favorire, no, ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze di andare a scuola da soli. Quindi abbiamo fatto un progetto e proposto all'amministrazione nel POC, dove si progettava tutta quest'area qua. Per cui questo e l'integrazione del giardino sarebbe stato il completamento più logico di questo progetto. E invece il comune ha scelto un'altra proposta, quella di, in questo spazio, di distruggerlo praticamente, quindi questo residuo di acquedotto Mediceo distrutto, per farci una pista di atletica leggera, cosa di cui non c'è bisogno. Questa realizzazione privatizzerebbe quest'area, la distruggerebbe completamente e sarebbe completamente fuori contesto, insomma. E qui ci siamo mossi, anche in questo caso, perché l'unico modo per mantenere e per conquistare questo spazio è abitarlo. Quindi cerchiamo, dalle feste alle persone che lo vivono semplicemente incontrandosi, facendo anche delle attività, non solo le merende, ma facendo delle tipo letture, no? Di questo genere, di questo tipo, voglio andare avanti e sto finendo, penso di avere rispettato il mio tempo. Aspetta. Ecco, allora, riprendo, chiudo con questa citazione: il paesaggio non è soltanto quello che racchiude beni d'emergenza di particolare valore, ma è un sistema articolato e complesso che racchiude e qualifica tutte le nostre relazioni. Quindi, poiché il paesaggio contiene tutto, è fondamentale tutelarlo. Perché fino a poco tempo fa, ma penso ancora, il paesaggio era quello che racchiudeva le emergenze, no? Storiche, culturali, artistiche. No, invece la Carta Europea del Paesaggio introduce veramente questo approccio, no? Che tutto è paesaggio, tutto quello che circonda e che entra, no, nella nostra vita, nelle nostre relazioni. Noi viviamo nella città, c'è il paesaggio urbano, c'è il paesaggio agricolo, ci sono varie, no, declinazioni di questa parola paesaggio, però noi viviamo nel territorio, nel paesaggio, e quindi è importante averne consapevolezza e fare di tutto perché sia tutelato e salvaguardato, e soprattutto usato bene, usato per le persone che lo vivono, non per gli speculatori. Grazie, scusate, sono stata un po' confusa. Bene, a questo punto, se qualcuno vuole intervenire, è benvenuto. Sono rimasto estremamente anche in maniera molto negativa, mi ha molto emozionato anche l'ultima citazione, la volevo ringraziare, insomma mi sembra incredibile anche la storia di acquedotto che ignoravo e quindi sicuramente di ignorare. Ciao, sono Francesco Torrisani, il Comitato Salviamo Firenze, e niente, volevo ringraziare per questa opportunità comunque. No, volevo intervenire, come al solito mi dispiace che abbia già sentito questo mio ragionamento riguardo alla trasformazione dell'area ex OGR, cascine, privatizzazione delle cascine e costruzione della Pistoiese Rosselli, e parto dal negazionismo, perché insieme a Paola e altre persone attive nel rione abbiamo fatto delle osservazioni sulla strada Pistoiese Rosselli. È una follia assoluta, perché porta 1200 auto all'ora dentro praticamente le cascine a intasare. Porta al Prato, che è già intasatissima, per, dicono, liberare via Baracca, ma in realtà poi nel piano della mobilità c'è scritto che serve per l'ex OGR, per servire ex OGR manifattura Savacca, quindi giusto. Quindi portare le musine è una bella definizione, no? Però la Betella Viaggi nasce già un'idea vecchia negli anni 80, non ci sbagliamo. E la mettono al posto di fatto di una strada ferrata, di una ferrovia, perché questa è la realtà. E quindi un'osservazione riguardava un rischio idrogeologico, loro dicevano, tanto i tempi di ritorno sono ogni 200 anni, quindi non c'è problema. Io dicevo nella mia osservazione, guardate che c'è un cambiamento climatico in atto, per cui i tempi di ritorno degli eventi esterni vanno un attimino rivisti. In risposta, sì, l'abbiamo fatto tutti i calcoli, ma nonostante il cambiamento climatico il T200 è rimasto lo stesso. Allora io, perché è di cattivo gusto, però questa risposta è di aprile 2023, cioè dal 2023 a oggi quanti eventi climatici estremi ha vissuto la piana? E la strada Pistoiese Rosselli contempla anche la copertura, tra l'altro, del carro macinante, ulteriore copertura del carro macinante. Adesso arriva l'ex OGR, quindi serve per quello. La privatizzazione delle cascine, è una porcata perché come viene giustificata? Perché ti dicono servono i soldi per mantenerla, ma il comune, dato che il comune spende 20 centesimi al metro all'anno per il parco delle cascine, è una spesa ridicola, perché lo 0,03% del bilancio comunale sono 200 e poco mila euro. Quindi non ci prendiamo in giro, non servono i soldi dei privati su un bilancio di non so quanti milioni, no, quasi un miliardo, insomma, del comune. Quindi per questo dico che è una porcata, per come ce la presentano. E quindi bisogna opporsi. Ma secondo me è importante, rispetto alla costruzione della palazzata che ha definito Ilaria, ma chi vive in questo rione, secondo me dobbiamo anche noi, come risposte e reazioni, insomma, oltre alla richiesta di una variante che blocchi tutto, perché la partecipazione la fai se si parte da un progetto da definire insieme, non quando la concessione a demolire, suppongo sia stata già data, il master plan esiste perché Nardella e Desiree a marzo 2024 sono andati, hanno fatto la passeggiata e hanno parlato del master plan, vorremmo vederlo prima di parlare di partecipazione. Quindi blocchiamo tutto e coinvolgiamo il quartiere perché in cui si vive, io ci lavoro, non ci vivo, però si vedrà realizzare, si sta in via Paesello, si sta in via Piazza Bocianchino, si sta in via Mieluzzo, ma quella nuova, la strada che hanno fatto, si vede da un giorno all'altro un muro di 10 piani che li blocca la vita, no? Quindi io penso che muovere un quartiere che è sempre stato così attivo, io non lo vivo, quindi non è che vengo a dire come bisogna mobilitarsi a stare a pochino, non è che ho questa pretesa, però mi sembra che sia importante che il quartiere sia consapevole, che ognuno e ognuna di noi, anche se siamo qui, che siamo un pochino informate, e sì, di fare un lavoro anche capillare con le persone con cui interagiamo, perché questa roba qui non può passare, perché questa è la mazzata finale a Firenze, non è l'ennesimo splash, è qualcosa di molto peggiore, e quindi va fermamente bloccato. Ci sono dei rischi di auto legale per il comune, qualcuno l'ha paventato, l'altra sera si è fatta una riunione, c'era anche Paolo, altre persone. E il comune prenda un po' un attimo il coraggio e la credibilità e recuperi un minimo di credibilità dei rischi di auto legali con una cosa di salvaguardia è veramente limitato, si parla di anni e anni di attesa quantomeno, e comunque con tutti gli argomenti del caso perché qui c'è un interesse pubblico che deve essere salvaguardato e una mobilitazione. Ieri c'è stato un consiglio di quartiere a Cuneo aperto, è stata una roba incredibile, delle parole che si è riempita la giunta per dire la città sta venendo svenduta, noi non ci possiamo fare niente, ma abbiamo bloccato i monopattini, abbiamo tolto le macchinine da golf nel centro. Questa è stata una narrazione del presidente del quartiere della giunta, quindi non la possiamo accettare, bisogna promuovere, catalizzare e provocare una mobilitazione proprio per con le persone con cui interagiamo in maniera orizzontale, perché se no non ci si fa. Grazie. Scusate se ho... Mi conoscono quasi tutti, io sono Silvana Lì, vengo dall'associazione Giardino Saiamo Fino, che non esiste più, anche questo è un fatto, tenetelo presente, va bene? Allora, noi siamo stati 10 anni fa, mi sembra, dai viaggi, dopo questo percorso che abbiamo fatto sui 4 luoghi con Pesaro e Gente. Abbiamo provato la strada istituzionale, quei viaggi sono rimbalzati, poi con Paolo e con la Laura ci siamo visti con la Del Re e abbiamo ottenuto un paio di risultati, però abbiamo visto nel confronto istituzionale è praticamente perdente, cioè loro poi fanno quello che gli pare, va bene. Io poi lo dico perché vengo da San Lorenzo e per Sant'Orso la non si è fatto, guarda a Pepe ne ha fatto Sant'Orso e lì c'è stato anche un percorso partecipato pagato alla regione. Quindi anche questa volta la partecipazione, cioè io non voglio essere dispartista, però se si vuole arrivare ai risultati cerchiamo degli altri modi, perché questi qui non funzionano, cioè l'abbiamo già verificato, va bene? Allora, questa è la prima cosa, l'incontro con le istituzioni. Un'altra cosa è ho pensato, cioè proviamo le vie legali, il TAR a quanto pare risponde sempre negativo. Poi l'altra cosa che volevo dire, tenete presente che Flora non è un nome così, c'è Salini in pregio dietro e c'è pure la Rothschild. Ora io non so che contratti hanno firmato, ma al ponte Salini in pregio se si blocca lavori con 1 miliardo. Cioè, quindi battiamo in considerazione una serie di cose prima di dire che cosa facciamo, perché la mobilitazione non è semplice portarla avanti. Noi ci abbiamo provato per 12 anni in quartiere e abbiamo avuto l'associazione. Questo è un dato di fatto. Cioè, poi si può. Hai vissuto la tragedia o no? Allora, l'altra cosa qual è? I ragazzi dell'Emerson, loro sono di da più di 20 anni. Come mai? Perché hanno occupato. Cioè, allora bisogna decidere come muovere, perché io ho 70 anni, di perdere altri 12 anni, probabilmente non ci sarò nemmeno 12 anni, dietro una cosa, Chio. Per non vedere neanche una virgola cambiata e sto a casa a guardare un film, cioè te lo giuro, nel senso, o si trovano dei modi che io posso vedere che c'è una prospettiva positiva di realizzare qualcosa, non far andare via Gragia dalle cascine, evitare che venga fatta la fondazione privatizzata delle cascine, ma va trovato in modo, perché quelle abbiamo provato finora e non funzionano. Cioè, io ci ho provato e Francesco lo stesso, Paolo uguale. Quindi la cosa che secondo me sulla quale bisogna coalizzarsi è come arrivare a questi risultati e mettere uno stop a questa svendita di Firenze, che a me mi fa venire sempre in mente una cosa sola, mani sulla città. Cioè se io penso a quel film dico, perlomeno a quei tempi c'era uno come il Rose ci faceva un film, poi io ce ne vedo quelli, mi sembra che tutto sia pari, va bene tutto, e tutto passa in questo mondo. Poi io ritorno sempre lì perché il potere istituzionale si permette, perché dal maggioritario ci sta il podestà, cioè in consiglio comunale decidano poi nulla, è la giunta che decide, la giunta è la sindaca e quindi cioè, noi come cittadini, perché la gente non va a votare, cioè, ragazzi, cioè, se no ci si racconta in novelle, cioè, perché effettivamente quello che te tu delichi conta quanto è te, oh. E quindi cioè, Io, perfetto, mi sforzerò anch'io di capire come fare, però quello che io vedo, gli unici che hanno ottenuto i risultati sono quelli dell'Emerson, perché hanno occupato. Cioè, uno deve fare delle scelte poi alla fine della vita, no? Mi muovo così o mi muovo così? Noi ci siamo mossi in tre modi differenti, come funzionava uno. Fine della guardia. Credo che bisogna comunque sollevare un bel polverone e porto ancora a quello che è già stato detto per molto, degli accenti, qualche elemento più deciso. Penso che il comune, rispetto all'interesse pubblico dimostrato, che dobbiamo dimostrare, dobbiamo essere molto più chiari su qual è l'interesse pubblico sulle aree ex officine. Non può non essere sollecitato a fare una trattativa, io l'ho detto già a altri che si interessano della questione, anche un'urbanistica contrattata a questo punto, insomma ci conviene, per esempio una permuta con edifici, che il comune compri gli edifici Telecom e SIP, sono due edifici vuoti da molti anni. Allora, cioè, dico, insomma, non si può essere insomma, sempre così schematici. Qua siamo di fronte a una cosa super interessante per la città intera, non è una roba di quartiere questa. E questo ve lo voglio dire in due parole. Allora, quest'area, l'ha già detto Ilaria in buona parte, quest'area è un collegamento fra la città antica, il viale ottocentesco, la città medievale, e quella che potrebbe essere l'altra città, la città grande, quella che vede delle aree che da periferia diventano città. E quell'asse rosso che avete visto collega degli elementi fondamentali. I due assi rossi, uno collega Porta Romana con Porta San Carlo, la parallela collega, guarda caso, i segni sul territorio non sono a caso, collega Torre Galli con la Torre di Careggi, che poi diventa villa e poi diventa ospedale, i due ospedali più grandi della Toscana, e qualcuno, a un certo punto non so chi, nel primo piano strutturato, aveva accennato all'idea di una linea tranviaria che collegava le due. E sarebbe, anzi l'avevamo pensata per metà, ma sarebbe da collegare tutto e sarebbe strategica, non le due, le tre, due, tutte quelle che sono parallele alla ferrovia. Quella filtra il traffico verso l'interno e verso la città antica. Dunque bisogna prefigurare un assetto della città diverso, bisogna riuscire a dirglielo a questi capoccioni o capoccione insomma della giunta. Basta con dei discorsi a menare il camperlaia, a dire si partecipa, non si fa. Qua o si fa una scelta decisa oppure è il disastro di questa città, è la fine. Io l'ho già detto, sia le linee tranviarie, sia quest'area OGR. Allora, per chi sta al quartiere, dobbiamo ripristinare il tracciato ferroviario lì dov'è, non spostamenti, perché quella è una truffa. Va bene? Dire che si spendono 23 milioni a chilometro per una linea che c'era, non c'è più, ma c'è il sedime, è per fare la strada. Allora, noi ci facciamo sottrarre una risorsa fondamentale per la città, che è quell'area vuota, fatta di attrezzature pubbliche rare, quindi di interesse metropolitano, va bene? E ci si fa portare via spendendo un sacco di milioni per far guadagnare il privato, cioè Salini e la sua speculazione. No, ci si rende conto di che cosa stiamo insomma, assistendo. Per questo credo che bisogna tentare in tutti i modi di mettere in evidenza questa situazione di ruberia. Io in un primo articolo dissi, visto che siamo di fronte a enti pubblici, pensiamo alla donazione. Le ferrovie, il sindaco dica alle ferrovie che deve fare una donazione, come la ultima Medici ha donato la collezione privata, questi erano beni demaniali, fino al 1848 erano beni demaniali. per fare la ferrovia, poi successivamente le officine. Insomma, gli argomenti dobbiamo tirarli fuori tutti, dobbiamo accanirsi su questa storia, è molto molto importante. Grazie. Dunque, volevo dire due cose. Allora, io non so se vi rendete conto, però credo sia ormai palese da tutti gli interventi che abbiamo sentito, che da perlomeno 20 anni a Firenze si continua a costruire, cementificare costantemente, e tra l'altro viene fatto esclusivamente per chi ha i soldi, cioè per i ricchi. Si fanno solo cose di lusso. Questo non può essere un andazzo che può andare avanti all'infinito. Dobbiamo in qualche modo muoverci. Adriana all'inizio, appunto, abbiamo letto il testo che ci ha mandato, diceva appunto che l'unico spazio verde presente in zona è quello del giardino di via Maragliano. In tutta Saio Pino è l'unico. Quel giardino non ci sarebbe stato se nel lontano 1975 gli studenti del liceo, la gente che abitava in questo posto e così via, non avessero occupato, okay? Altrimenti forse non c'era neanche quello, perché quello era soltanto un'area dell'ex... No, era, vabbè, l'idea standard. Dell'ex Idea Standard, ok, che era attaccato alla palazzina praticamente, che ora fa da scuola materna, insomma, per capirsi, e dietro c'aveva appunto questo. Perché è stata occupata? Perché è stata presa? Allora, noi abbiamo per esempio in questa zona due aree che potrebbero diventare aree verdi, altro non c'è o poco ci manca, perché si sono mangiati tutto, hanno cementificato tutto. Questa è una delle zone più cementificate, probabilmente, di tutta l'area fiorentina, come è stato detto anche da Paolo e da altri. E sono quella, la parte lasciata andare, insomma, no? Di accanto a Piazza Monsanti, cioè nella nuova, nella Leopolda, nel quartiere Leopolda. E anche quello, cioè, voglio dire, incominciamo, io cerco di buttare lì delle proposte, incominciamo a fare dei presidi, incominciamo a fare dei volantinaggi in zona, incominciamo, cioè, scriviamo qualcosa, incominciamo ad attaccare dei cartelli a quello che è il reticolato, insomma, che lo delimitano. E lasciare lì, insomma, cioè sensibilizziamo se possibile per fare in modo, e fino ad arrivare probabilmente anche a un'occupazione, cioè armiamo di macete, di qualcosa del genere, e buttiamo giù tutta la sterpaglia, e una parte perlomeno, in modo da renderlo vivibile, ok? E diciamo che quello è uno spazio verde. L'altro spazio verde è quello verso via Pasiello, dove c'era il deposito degli autobus, che anche quello si parla solo di sicurezza, degrado. Ecco, questo qui per esempio, ora vi faccio scorrere, è una cosa prodotta dai nostri avversari, diciamo, e dicono: ah, quanto è bella la ristrutturazione dell'OGR, dell'ex OGR. Ma in effetti è interessante, interessante proprio sia per capire che vogliono fare in parte, perché poi non ce lo dica mai completamente quello che vogliono fare loro, ma più che altro per capire di che cosa si sta parlando, ok? E quello è un qualcosa su cui dovremmo davvero impegnarsi. È una delle aree di speculazione, perché di quello si tratta, più grosse dell'area fiorentina. È enorme, sono 100.000 metri quadri, fino a 10 piani, si diceva appunto, quindi una roba pazzesca, che probabilmente la più grossa che si è visto su Firenze. Su quello bisognerebbe davvero fare controinformazione, di dire le cose come stanno, perché è pesante, soprattutto perché c'è il problema che già Saio Pino è un'area calda, no? Un'area dove d'estate fa molto caldo, un'area. Se, come avete visto, come si vede dalle immagini, ora non so chi è arrivato qui, perché siamo su YouTube, per cui è antipatico. Vabbè, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, sì, sì. No, no, ma l'ho chiuso. E in effetti, appunto, lì, se si è visto, no? Quelle che scorrevano, soprattutto all'inizio, erano proprio le immagini viste dall'alto dell'ex OGR, che tra l'altro probabilmente nessuno l'ha mai vista dentro. Si può vedere appunto attraverso questi video da sopra, ma è chiusa per ora. Per cui lì, come abbiamo visto, c'è un qualche rimasuglio di polmone verde, anche se ci sono i capannoni, eccetera. Se queste, queste aree verdi, che come diceva Paolo appunto, sono in parte piantate a suo tempo dalle ferrovie, in parte autoctone, diciamo, cioè che si sono venute su da sole, se vengono levate queste, qui si muore, cioè nel senso, con il riscaldamento climatico e con il fatto che levi questa cosa che in qualche modo ci protegge, insomma, no, dall'innalzamento dell'area di calore, siamo rovinati, cioè qui non si abita più, non si vive più. Quindi direi di incominciare a lavorare su queste cose, incominciare a muoversi su queste cose. E appunto, come dicevo, in effetti, fino ad arrivare magari anche a delle cose, insomma, un po' che vanno, non va bene il ricorso al TAR, non dico di no, ma qui o si riesce a far muovere un po' la gente a dire no, questo non ci piace e in qualche modo lo blocco, oppure questo ci deve appartenere e quindi lo occupo, faccio qualcosa per cui ti impedisco di fare ulteriore speculazione, oppure purtroppo succede quello che è successo negli ultimi 20 anni, speculazione ad libitum, no? E il fatto che si lavora solo per i ricchi, appunto, la strada che voglio realizzare non a caso è la strada delle limousine, per capirsi, e basta pensare, poi chiudo al discorso, anche perché sennò prendo troppo tempo, al discorso per esempio della linea 4 della tranvia. A me viene il dubbio, no, che visto che qui intanto sono sempre i soliti che fanno i soldi sulla nostra pelle, no, per esempio una delle ragioni potrebbe essere il fatto che mentre, cioè, c'era già la ferrovia, bastava utilizzarla come ferrovia metropolitana. Bene. Appunto. Mi viene il dubbio, per esempio, ma queste sono cose da dirgli in faccia nei consigli comunali. Mi viene il dubbio che mentre una ferrovia ha un'area di rispetto, una tranvia no. Allora, forse è l'unica ragione. In questa maniera si costruisce anche proprio accanto al binario, mentre invece prima era più difficile. Non è un dubbio. È una certezza, lo so. Beh, mi fermo qui. Scusate, volevo dire una cosa anch'io. Penso di essere insieme a come altre persone per giovani in questa stanza. Sì, noi siamo tutti vecchi. No, è un po' una riflessione su questo tema qui. Io trovo, cioè, questi incontri molto belli, molto interessanti. Trovo che la generazione precedente, a quanto pare, aveva degli strumenti anche di informarsi, costruirsi una soggettività politica, una riflessione della società un po' più espansa di quelle seguenti, spesso e volentieri. E una riflessione che spesso ho incontrato è la mancanza proprio delle persone di una teorizzazione su questi temi, che qui invece in qualche maniera vengono maneggiati con una certa confidenza. E una cosa che io trovo che manca tanto è appunto i corpi più giovani. Ora, per varie ragioni, infatti secondo me manca un po' la riflessione su perché non ci sono questi volti in questa situazione qui, perché se si parla di presidi occupare, cioè ha voglia anche alle situazioni strutturali da Emerson, che comunque non è che stanno proprio nel fiore della loro stagione, cioè. No, qualche giovane c'è. Sì, ma non sono nel fiore della stagione, non è un momento eruttivo, non sono in espansione, non, cioè, sono momenti abbastanza. Ma resisto. Non è un fatto propulsivo, cioè qui come qualcuno diceva ci vuole un movimento. Cioè, che non è verso il GR, non è una scusa, l'intervento più grosso effettivamente. Più speculazioni in atto in questo momento, però insomma è una questione sulla città molto più ampia. Io vorrei un po' capire, rispetto poi anche a quello che sto attraversando io, poi se ne sta parlando anche Mattia, con altre persone, poi all'interno della sinistra questo significa sempre tutti, ci sono i gruppetti, le cose, però su un progetto di questo genere, sulla trasformazione della città, effettivamente a un certo punto uno può riuscire a far convergere delle energie se capisce dove queste energie stanno. Se uno dice facciamo un presidio, c'è la Wish Parade, ora è da un anno che stanno sperimentando con questa cosa, fare presidi a giro, in luoghi comunque riappropriati dai giovani, lo skate park è stato costruito al Campo di Marte perché i giovani lo volevano, per là. Cioè ci sono delle energie, però io si devo andare delle informazioni e non pensare troppo e fare in modo che questa cosa possa aumentare, non che continuiamo a dire ah no, però se quello viene io non ci sono, se viene quell'altro io non ci sono, cioè, perché ci sono anche queste dinamiche, cioè, nel senso che sono strutturali ormai da tanti anni, cioè che in questo momento la città è in questa situazione, io direi anche di smetterla, nel senso sono della roba e la gente si porta dietro da tanti anni. Cioè, io volevo dire solo questa cosa che è più riferita magari a generazioni a me un po' più vicine, però davvero non si riescono a sciogliere delle cose che ci porterebbero davvero a poter fare qualcosa riguardo di questo. Io solo questo. Scusate se posso fare, non potrei con il mio time e farò del mio programma. Riflettendo, io al secondo incontro a cui partecipo qui scoprendo delle cose di cui per esempio una persona mediamente diciamo cerco di interessarmi, però anche la tua volta cioè, te a informarci, sei stato anche molto chiaro in tutte le nozioni, scopro molte cose che non sapevo e cose che poi stanno portando a un quadro molto, posso dire, drammatico, no? Della città, potremmo anche applicare al mondo quello che sta succedendo. Credo un problema fondamentale è quello che è emerso negli ultimi due o tre interventi, cioè quello di come creare il convergimento e la partecipazione. Cioè, perché se no, siamo lì, sappiamo molte le cose, si dicono cose giuste, però gli altri vanno avanti per la loro strada. Quindi dov'è che si riesce a fermare, dove aver fatto l'esempio dell'occupazione, di altre situazioni, sto pensando anche a quello che prova a fare GKN, vediamo se ce la fa, perché anche lì stanno facendo morire piano piano, no, eccetera. Per cui credo che chi ha questo tipo di conoscenza sta portando avanti queste cose in modo encomiabile, deve porre a monte il fatto che, per esempio, io di tante cose citate non le conosco tecnicamente, no? Quindi fare una cosa in cui la gente si può informare facilmente, faccio un passo indietro, anche perché l'informazione è una schifezza, no? Cioè non c'è più giornalismo, no? Negli anni 70 c'era ancora qualcosa che faceva un po' l'inchiesta, ora sono tutte allineate, non eccetera. La politica non parliamo, ma anche noi, come cittadini, sto generalizzando ovviamente, sto parlando di questa stanza, ma siamo belli bolliti, no? Basta non mi levate la macchinina, basta non mi levate per bene, che andare al mare, e sono tutti contenti. Quindi bisogna creare partecipazione, le persone invece hanno voglia di informarsi. Questa è una sfida non facile, vuol dire creare degli strumenti, sono siti, social, eccetera, eccetera, che permettano a tutti di capire, informare, collegandosi a questi eventi che sono fondamentali, ma poi dopo tutti allinearsi e creare la partecipazione e anche la divulgazione. Perché poi magari lui, io, un altro che è stato a questo incontro, a voglia e poi ne parlano gli altri e si crea la rete. Io credo che questo sia fondamentale, perché vi assicuro che io in due incontri ho scoperto più cose del mio territorio che in 40 anni prima, per cui grazie a voi, però bisogna fare un ulteriore passo se si vuole raggiungere un risultato, che non è facile. Articoli di approfondimento scritti da molti dei presenti dall'altro, quindi poi ad accesso libero senza nessun tipo di pubblicità, no, anzi, se volete aiutarci a sopravvivere siamo contenti. Sta uscendo un attimo di autopromozione il libro Firenze Arenata, vendita del patrimonio di edilizio pubblico e finanza immobiliare. A giorni, anche quello sarà a libero accesso, e certo dove si può studiare tutto quello che è successo su tutte le aree di cui non abbiamo parlato e anche di quelle di cui non abbiamo parlato. Quindi partecipare e studiare. Un'altra cosa però che io devo dire per tirarsi un po' su di morale è che negli ultimi mesi la stampa si sta accorgendo di noi, si sta accorgendo di noi, quindi io penso che partecipare è giusto, partecipiamo di più, parliamo di più, studiamo di più, interroghiamoci eccetera eccetera, e però secondo me l'opinione pubblica sta nettamente orientandosi verso una critica del modello, e ha un'opinione pubblica che si muove, segue la magistratura, cioè secondo me chi ci governa oggi, podestà che ci hanno governato e quelli che ci governano oggi si stanno un po' ritraendo, cioè non hanno più la stessa arroganza verso la critica. Vi ricordate quando una terra su Eron Montanari perché disse la città in vendita? Secondo me oggi non è retta, non si può più fare. Anche la De Re la credeva. Anche De Re la credeva. Anche la Cecina De Re la credeva. La situazione sta cambiando, ecco, solo questo, sta cambiando e studiamo. No, una cosa rispetto alla cosa detto studiare io la trovo una cosa bellissima, infatti lo sta per l'Italia, cioè, però secondo me appunto rispettando al tema giovani, tipo su proprio dati duri. Stiamo entrando in una fase che alcuni definiscono post-illiterate, cioè la gente non sa più leggere. I giovani spesso, cioè, sta proprio cambiando queste cose, quindi cos'è lo studiare? Cioè, esistono delle strutture, delle infrastrutture per cui, al di là di questo luogo dove la gente si incontra, c'è partecipazione, come si faceva una volta, dove la gente si rimpara a reimparare, a imparare, cioè nel senso... C'è davvero tanta gente, non c'è più scuola di partito, che scuola c'è? Nel senso, il sito c'è, lo seguiamo, è importante, però poi, cioè, io... Allora, mi chiamo Laura Gannaro, Comitato Tutela Manifattura Tabacchi e Italia Nostra. Faccio anche una breve parentesi pubblicitaria. Oltre all'ottima città manifesta che seguo da che esiste, anche Italia Nostra ha un blog, Italia Nostra Firenze WordPress, e anche lì ci scrivono diverse persone presenti. Allora, ricollettendomi a quello che ha detto il signore Paolo, mi viene in mente che uno degli argomenti che potrebbero in qualche modo attirare l'attenzione anche dei fiorentini più in qualche modo incalliti e resistenti ad uscire dal proprio pozzolo è il mettere chiaramente in luce come questa operazione ex OGL può essere tranquillamente uno dei primi passi abbinata all'idea della fondazione delle cascine per far sparire il verde pubblico numero uno della città, cioè provare a, come posso dire, a impressionare sul fatto che come è sparito il mitico giardino parco del parterre, che era un bellissimo parco cittadino pubblico che piano piano è stato mangiato dalle costruzioni e dall'edilizia. Io l'ho scoperto recentemente che il parterre era costituito da un altro parco cittadino, perché ora non è rimasto nulla di quello. Questa potrebbe essere la fine, la prossima fine del nostro parco pubblico, cioè del parco dei Fiorentini, perché i progetti di utilizzo in parte privatistico, ricordiamoci che, col fatto di Agraria che se ne andrà via, non lo so, pare che ci venga la Guardia di Finanza, io avevo sentito questo, no? Va bene, comunque sparisce una realtà che è, non posso dire, assolutamente coerente con, per le proprie funzioni con il luogo in cui si trovava. Che gli dicevano hanno costruito una mega palestra in un'area che era riservata alle attività diciamo esercizio dell'università. Poi il prossimo passo sarà far sparire l'istituto d'Agraria, già c'è l'asilo nella palazzina dove c'era una volta il sovrintendente delle cascine, quindi anche quella ha perso la sua funzione. Quindi far capire ai fiorentini che se ammettiamo questa ulteriore trasformazione abbiamo il rischio pezzo dopo pezzo di vedere sparire anche l'unico parco cittadino degno ancora di questo nome. Potrebbe essere una via, diciamo, non è magari molto, come posso dire, onesta, perché sì, cioè ci si un po' visionaria. È visionaria, però appunto hai visto mai andando, come è successo per il fratello, potrebbe esserci il rischio anche per la scia. Forse sarebbe suonare un campanello d'allarme e poi utilizzare anche altri mezzi, pure occupazione nel caso, la variante per pubblica utilità come ha detto Ilario, cioè usare tutti i mezzi compresi questi tra virgolette terroristici.